Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi avrei voluto parlarvi, vi parlerò, di bellezza e verità. Sono due concetti che spesso inseguiamo, spesso allucinamo, spesso citiamo, ma nulla del nostro quotidiano è più lontano dalla bellezza e dalla verità. Cosa è bello e cosa è vero? È difficile stabilirlo, voi dovrete dirmelo questa mattina. Viviamo in un'epoca in cui sia il bello che il vero sono concetti astratti. Nulla di ciò che ci circonda consideriamo figo, interessante, divertente, piacevole, emozionante, in realtà corrisponde a dei canoni di bellezza, perlomeno dei canoni classici di bellezza. Nulla di ciò che ci circonda è vero. Siamo nel mondo della lussura, dell'artefazione. Ognuno di noi è capace di presentare se stesso in un'immagine che passa attraverso delle applicazioni che servono apposta per conferire a quell'immagine fascino, senso di antico, senso di vissuto, senso romantico, i filtri di Instagram. Cosa c'è più lontano dal bello dei filtri di Instagram e anche più lontano dal vero dai filtri di Instagram? Beh, in questo contesto è molto difficile stabilire ciò che sia bello e ciò che sia vero. Cos'è per voi il bello e cos'è per voi il vero? Inseguite veramente la bellezza e la verità? Pensate siano due categorie, due concetti importanti. Nel mondo contemporaneo, nel mondo che voi vivete, nei vostri rapporti personali, nei vostri rapporti sociali, esiste qualcosa di bello e qualcosa di vero? Avete idea di cosa sia la verità? Insegnate ai vostri figli, applicate nel vostro lavoro, nella vostra professione, nei vostri rapporti sociali il concetto di bello e di vero, o altrimenti voi insegnate, ammaestrate, come nel film con Tognazzi, Mostri, i vostri ragazzi a essere subdoli, a mascherarsi, a cercare di adattarsi alle situazioni, a mentire, l'elogio della menzogna. E cos'è per voi bello? Bello è quello che è di moda, bello è quello che piace, bello che è quello che ha successo, è bello che è quello che conservate come ricordo di un bello passato. Il bello e il vero sono passati e sono attuali? In conclusione, voglio dire che dedico questa trasmissione alla moglie scomparsa di Alessandro Milan, Francesca Del Rosso. Non posso dire di averla conosciuta, l'ho vista soltanto una volta. Un anno fa in una trattoria per caso la sera a Brescia insieme a Alessandro, lei mi fece una foto con la sua copertina del libro sulla mia faccia e ancora la conservo. Riguardo al bello e al vero, di vero c'è che lei non c'è più, di bello c'è tutto quello che di buono può aver lasciato alla sua famiglia, ai suoi figli e ai suoi amici. Ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Tu, lì in fondo, non hai il libro? No. Pinocchio, tu che sei il migliore della classe, vai a sederti vicino al lucignolo che è senza libro. In via eccezionale per oggi potrete leggere insieme. Quella che ci apprestiamo a fare oggi è una lettura di principi morali. Silenzio! Laggiù, Pinocchio e lucignolo, non sento le vostre voci! L'uomo nasca ricco o povero. L'uomo nasca ricco o povero. È obbligato in questo mondo a lavorare. È obbligato in questo mondo a lavorare. Beh. Lucignolo fuori! Ciao. Riprendiamo la lettura. Chi non lavora non mangia. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi, filosofo della scienza, ha scritto assieme a Marco Dallari un libro edito dalla Erickson, Educare a bellezza e verità. Cosa c'è di bello e di vero in questa lezione di Pinocchio, lezione di morale, in cui soltanto lucignolo è capace a ribellarsi? Direi che non c'è nulla di bello e non c'è nulla di vero. La lezione così magistralmente riprodotta nel testo di Pinocchio, di Collodi, dove parla delle vicende di Pinocchio, è un esempio di indottrinamento al giusto, al vero e probabilmente anche a un'idea di bello. Ma in questo non c'è nulla di bello e di vero. Quando tu poni il problema della bellezza e della verità, devi anzitutto porre il problema della capacità di riconoscere il bello, di identificare il vero ed eventualmente in un secondo momento di saper produrre il bello o costruire una ipotesi attendibile perlomeno. Nel titolo del vostro libro c'è la parola educare. Oggi la scuola educa alla bellezza e alla verità? È importante che educhi alla bellezza e alla verità? Sarebbe una missione fondamentale. In un'epoca in cui la cultura visuale, anche grazie alle nuove tecnologie, è diventata ancor più dominante, la capacità di leggere le immagini o i video, di riconoscere i nuovi stilemi di questa cultura aumentata, dovrebbero essere la base di una nuova educazione al vero. Quello che era una volta il Grand Tour, il viaggio in Italia per educarsi alle bellezze della classicità, ora dovrebbe forse essere un Grand Tour negli universi digitali per educarsi a una bellezza possibile che pure esiste ma che ancora troppo poco conosciamo. Similmente al vero. Siamo nell'epoca della cosiddetta post-verità, dove tutto sembra vero ma poi non lo è, le bufale circolano più o meno incontrollate. A maggior ragione dovremmo dotarci di quegli strumenti che pur ci sono e non sono neanche così nuovi, banalmente come si impara a fare una ricerca, e questo sarebbe molto utile, bada, non solo agli studenti ma anche ai cittadini. Oggi è il 12 dicembre. È l'anniversario di un evento drammatico per la storia d'Italia, la bomba di Piazza Fontana. Cosa c'è di vero di quello che noi sappiamo? Come siamo stati in quanto cittadini capaci di pretendere il vero? Non è solo una questione di muri di gomma della politica, ma anche di una cittadinanza debole in quanto non educata a pretendere e chiedere il vero così come dovrebbe. E cosa c'è di bello in un attentato? Sicuramente niente c'è di bello in un attentato. Ci può essere di bello la reazione di una popolazione che pretende verità, ma la pretende non semplicemente come uno slancio morale, ma come un dovere di un cittadino. La verità è un diritto, ma è anche un dovere. E noi non siamo naturalmente educati al vero. Dobbiamo allenarci alla verità. Ecco, io come sempre ormai uso il mio pubblico per un test socio-antropologico, una parolona, non vuol dire assolutamente nulla, per dare dignità alla scelleratezza del mio esistere. Vorrei che oggi chiamaste all'800240 0024 molto semplicemente, mi diceste una cosa che per voi è bella, una cosa che per voi è vera. Semplicemente, anche semplicemente quello che avete davanti voi, quello che pensate. Ditemi una cosa bella e una cosa vera. 800240 0024. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va ad abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio. C'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Beh, ho capito, ma allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni necessarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza. È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. Stefano da Foggia, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Io la seconda volta che partecipo a questa trasmissione su una tematica che sembra simile. Allora, io chiamai un qualche un po' di tempo fa a proposito dello smartphone in classe da San Giovanni Rotondo. È un insegnante lei? Sì, mi ricordo, esatto, sì, mi ricordo. Benissimo, io richiamo perché la mia esperienza continua e oggi approda anche ad una fase che è quella della cosiddetta estetizzazione del banale. Mi spiego. Con i ragazzi facciamo un corso di fotografia da smartphone dove io cerco di insegnare loro, appunto come diceva il suo ospite, a leggere un'immagine, quindi a ricercare le qualità estetiche attraverso un'immagine, e inevitabilmente questa passa attraverso l'uso, ad esempio, dello smartphone e quindi di Instagram e quindi anche dei filtri di Instagram che prima citavi. Questo significa che anche attraverso un filtro di Instagram si può trovare aspetto estetico che magari c'è sotto gli occhi e non siamo in grado di riconoscere. Beh, a quello serve, a sembrare fighi quando si è squallidi. è che la forza usa sempre gli stessi filtri, ci abbiamo tutti la stessa cosmesi della nostra realtà fatta da un filtro Instagram. Mica dico che è brutto, bellissimo, lo uso tantissimo, mi piace, mi diverte, quando non ho nulla da fare mi diverto a fare una foto squallida, una cosa squallida, e con Instagram sembra una foto d'arte. Fabrizio Intonti, che è un fotografo vero, che ha vinto premi, quindi un vero artista con riconoscimenti internazionali, dice adesso con Instagram tutti sentono grandi fotografi. Vediamo di capire la differenza, che è interessante. Sentiamo prima Marco da Rimini. Sì, buongiorno. Intervenivo perché mi pare un argomento centrale questo, perché l'uno vale uno, poi nella democrazia, cosiddetta democrazia di internet, ha portato a sostituire completamente il criterio di verità con il criterio di opinione, di piacere, quindi di fatto... Di rappresentanza numerica, della democrazia. Diciamo che le varie incazzature che tutti abbiamo, no, sulla scomparsa di qualsiasi riferimento scientifico, qualsiasi punto comune, cioè non c'è, con il criterio di mi piace, quindi non importa che sia vero, non ha assolutamente importanza. Che diciamo, si crea un consenso su cose che in realtà hanno la lussuria di far parte di una grande massa che partecipa. Non è detto che l'idea estetica di una massa corrisponda alla verità. Ci sono state masse che hanno prodotto il fiorfiore della filosofia, della letteratura, dell'arte nell'Europa dei primi anni 20 del Novecento. Sono le stesse masse che poi andavano in piazza e mettevano gli ebrei dentro il forno, e alla fine erano tutti d'accordo che fosse un principio di bellezza. Quindi non è che bisogna mai essere affascinati dalla massa e dal consenso. Professor Marco Dallari, buongiorno. Buongiorno. Professor ordinario di pedagogia generale all'Università di Trento, dove ha fondato e dirige il laboratorio di comunicazione e narratività. Lei ha curato in questo libro, mi sembra aver capito, Morigi, la parte legata alla scienza, dovrebbe essere diciamo quella che più o meno si avvicina a una verità, e lei la parte dedicata alla bellezza. Ha sentito l'insegnante che parlava dei filtri di Instagram? Oggi è un po' difficile ricostruire, risalire a una categoria del bello o spiegare cosa sia il bello se non si passa attraverso appunto il condizionamento. Bello è quello che piace a tante persone, bello è quello che è di moda, bello è quello che piace, bello è quello che ci dà piacere, ci dà soddisfazione. Vediamo di fare un passo indietro. Se lei dovesse insegnare e far capire la categoria del bello a dei ragazzi, da dove partirebbe? Ma io partirei dal problema enorme dell'educazione alla sensibilità, dell'educazione emozionale. La bellezza, prima di essere un oggetto, è la persona che incontra questo oggetto. Un grande estetologo italiano, Vittorio Pranzini, dice che c'è bellezza quando si crea un'armonia fra una persona e ciò che la persona incontra. Quindi quando la scuola in passato ha cercato e cerca ancora di insegnare la bellezza, mostra gli oggetti belli e fa imparare a memoria che quella cosa lì è bella. Questo è completamente sbagliato. Quello che andrebbe educato è la sensibilità emozionale, come peraltro poi suggeriva l'inventore dell'estetica, Baumgarten, che chiamava l'estetica arte della cognizione sensibile, e quindi è questa sensibilità che andrebbe educata. Chiaramente si può allenare e educare la sensibilità solo attraverso l'incontro con esempi, però è la ricerca della bellezza quella che conta. Le faccio un esempio. Nel suo libro che ho scorso, lei fa l'elenco dei difetti di Afrodite. Sembrerebbe quasi il referto prima di un'operazione di chirurgia plastica. C'è di tutto, le dita più lunghe, c'è un sacco di difetti. Eppure perché è un canone di bellezza ufficialmente passato alla storia come tale? Intanto mi elenchi qualche difetto. Le dita più lunghe dei piedi, non ci ho mai fatto caso. Sono poi difetti che abbiamo imparato a riconoscere come qualità sexy. Molte volte, a parte il colore dei capelli più scuro, l'attaccatura è più chiaro, che sembra che si sia tinta e abbia la ricrescita. Che c'è la ricrescita, Venere, sì, la ricrescita, pensi un po' poi. La ricrescita naturale. Poi c'è questa queste due scanalature sul fondo schiena, le saliere, realtà, come le chiamano? Sì, esattamente, che in realtà sarà stato un difetto perfidia, però io credo che siano invece una qualità molto sexy del posteriore femminile e credo che lo credano. Sono quei due buchetti, quei due buchetti che stanno buchetti, al di sopra delle chiappe, che piacciono tanto. Esattamente, esattamente. Quindi in realtà il problema della bellezza di Afrodite è il fatto che anche un dito più lungo di un piede, mi sembra aver visto. Sì, sì, sì, ma anche quello può essere sexy. Sì, non ci ho mai fatto caso, di solito non si guarda, però c'è un dito più lungo di un piede. Sì, ma quasi tutti hanno un dito più lungo del piede. Era il canone della classicità che voleva che le dita dei piedi fossero pari come quelle di un karateta. In sì, ma non era l'alluce, con un dito in mezzo di quella sozzo qua. No, il secondo. Il secondo dito più lungo dell'alluce. Sì, esattamente. Problemi per mettere scarpe a punta, però va bene. No, in realtà di Afrodite però tutti si innamoravano e la bellezza di Afrodite è questa capacità di far innamorare di sé e di innamorarsi a sua volta. Il bello afroditico è visto come differente dal bello apollineo perché Apollineo sa esattamente cosa è bello e cosa è brutto. Afrodite invece si innamora e per lei è bello ciò di cui si innamora. Allora sentiamo un attimo Romeo. Cos'è per lei il bello sì. E cos'è per lei il vero? Due parole. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Guardi, per me semplicemente bello è mia moglie. Sì, vabbè, che sta in ascolto naturalmente, sì, va bene. Che spero che sia in ascolto. Ecco, vabbè, è il contrario della verità questa prima asserzione, perché lei sta facendo una sorta di complimento a sua moglie, che è lecito, che è giusto, ma non pronuncia una verità assoluta. Di solito ciò che io reputo anche essere bello, per me deve essere una cosa che va non solo ammirata e guardata e scoperta. Che sia a portata di mano, diciamo, la sua, ma al suo livello. Che sia a portata di mano. Ecco, è inutile dire che è bella una cosa che non ci arrivo. Qui non si accontenta dell'amore. Non mi accontento di che una cosa sia bella e poi non riesco ad arrivarci. Il vero qual è? Il vero è tutto ciò che non è ipocrisia, perché quando già una persona inizia ad essere ipocrita significa nascondere anche quelli che sono i suoi veri pensieri, le sue vere emozioni, e nasconderle perché qualcuno potrebbe giudicarlo o potrebbe scrivere. Quindi bisogna essere spontanei, come dicono nei reality show le mamme alle figlie che stanno nelle case del Grande Fratello: sii te stessa. Vediamo Martino da Bergamo velocemente, il bello e il vero. Sì, la ringrazio, il vero, abbiamo un disperato bisogno del vero e nelle scuole in particolare di tornare a parlare della ricerca scientifica e del metodo scientifico. Questo è il italiano che 400 anni fa ha detto: ma signori, se vogliamo vedere dove cadono delle pietre dalle navi, inutile leggere delle storie, i filosofi, andiamo sulla nave, gettiamo la pietra e misuriamo dove cade. Allora, il vero è la rivalutazione del metodo scientifico. Oggi siamo in un'epoca sciamanica, e il bello? E il bello sta nella bellezza della scienza quando scopre la verità, o almeno si avvicina a questa, ma con limpidezza, trasparenza, serietà, onestà, commitment, che sono i valori della scienza vera. Fermo lì, qua finisce la prima parte della trasmissione, diamo la linea a chi la deve prendere. Fra un istante ci sentiamo con Stefano Morigi, che sta gongolando perché dovrà rispondere alla domanda di Martino Bergamo. Dice che bello e vero coincidono nella scienza. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Cogli l'attimo, cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché va di fretta. No, ding, grazie per aver partecipato al nostro gioco. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà. Adesso avvicinatevi tutti e guardate questi visi del passato. Li avrete visti mille volte, ma non credo che li abbiate mai guardati. Non sono molto diversi da voi, vero? Stesso taglio di capelli, pieni di ormoni, come voi, e invincibili. Come vi sentite voi? Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? 80024 0024, educare bellezza e verità. Il libro uscito per Erickson di Marco Dall'Ara e Stefano Morigi è lo spunto per la domanda che vi faccio oggi. Ditemi una cosa bella e una cosa vera. Risparmio il commento a Stefano Morigi dell'Attimo Fuggente, film che con la mossa del professor Spock o con la macchinetta che toglie la memoria dei Men in Black cancellerei dalla memoria dell'umanità, perché è il film su cui si è costruita più velleità nel corpo insegnante mondiale. Sei d'accordo, Stefano? Ha rassicurato tutti i pregiudizi peggiori sulla figura dell'insegnante. Che basti salire sulla cattedra di quattro cazzate. Ed effetto paternalista e rassicurante. Ti leggo due sms per darti lo spunto, poi rispondi all'ascoltatore che trovava nella scienza una sintesi perfetta di bello e vero. Uno che mi dice, un ascoltatore: io sono bello, sono una massa di muscoli, tutti gli altri sono decessi a pedali. Sono così bello che quando mi ammiro faccio fatica a non trombare lo specchio. Potrebbe provarci una volta tanto, entrerebbe nell'area di origine, e quindi l'autocastrazione simbolica. Il mito ci racconta che persone così, diciamo, amanti della propria immagine, di solito negli specchi d'acqua ci affogano. Questo, quindi, ci si castra, esatto, si prova a possedere lo specchio. Questo è a rischio di vita o comunque di farsi del male, stia attento. E un'altra invece fondamentale. È crudo il linguaggio, ma devo leggerlo. Nicoletti, brutto stronzo, hai fatto pacchia, Ponte Lungo e ti pagano pure, e ora scassi la minchia con un argomento di merda. Hai la faccia tosta di dire che lavori, ti manderei in miniera. Beh, anche qui c'è una componente, diciamo, in senso lato perlomeno. No, ma noi analizziamo come tale, infatti. Visuale, no? Mi sembra un caso evidente di invidia. Chi è invidioso? Letteralmente chi non può, non è in grado di sopportare la vista di quello che non è e di quello che non ha. Evidentemente per qualche ragione, la tua professione, quello che fai, come sei, è un qualcosa che a lui risulta insopportabile. Quindi in quanto tale ottenebra la nostra capacità di vedere il bello e di concepire e capire cosa sia il giusto. Se il vero. Uno non è bello e non è in grado di ricercarlo, probabilmente fa di tutto per distruggerlo. Socrate, era nella riproposizione che ne abbiamo, era brutto e inseguiva la bellezza, ma quello è l'atteggiamento filosofico, così come inseguiva la verità sapendo di non essere sapiente. Essendo non sapiente cerco il vero, essendo brutto mi voglio educare al bello. Questo è l'atteggiamento di chi cerca. L'invidioso è il contrario, quello che non sopporta il bello che non è, il bello che non ha, la verità di cui non è portatore, la verità che probabilmente sa non poter essere la sua portata. Allora, rispetto all'ascoltatore di prima, che ti ha detto che nella scienza lui vede il vero e vede il bello allo stesso tempo. Cosa c'è di bello nella scienza? Vero, possiamo immaginarlo, anche se sì, per molti opinabili. È più facile intuirlo, anche se è sempre in qualche modo un vero che si mette in discussione costantemente, ed è già questa la sua bellezza, no? Di un vero che non si impone in maniera dogmatica, ma che si interroga in quanto vero, in quanto attendibile. Ma poi c'è una seconda componente, secondo me interessante, la bellezza di una formula. La nostra cultura, soprattutto in Italia, più versata sui temi umanistici, fatica a vedere la bellezza di una formula matematica e di accostarla a quella di una poesia. Sono tutte e due forme che parlano del mondo, che veicolano dei contenuti, contenuti che se fossero esplicitati in altre forme, magari meno belle, non sarebbero altrettanto efficaci. Prova a pensare un verso di Dante parafrasato, perde il suo valore. Cosa lo rende alta letteratura? La il fatto musica, che certo, è detto in quella forma, l'endecasillabo sciolto, esatto, tutte in quella cose, forma che, in cui Dante ha saputo dire e passarci dei contenuti. Beh, sai, forse oggi i cultori di fantascienza, di fantasy, di seconda generazione, terza generazione, lo capiscono meglio, le realtà composte dai numeri. Se pensi un attimo, il codice informatico ci fa vedere che se tu prendi e guardi il codice che genera una foto, sono dei numeri, delle lettere, quindi è quello. Matrix, la realtà, era semplicemente codice. Oggi il codice spiega il numero che sta dietro al bello, che è una lettura, questo, se vuoi, cabalistica, antica, piena di superstizione, di fascino, ma è una lettura coerente. Noi siamo un codice che ci rappresenta. Decriptare il codice, capire anche le radici della bellezza. Questo assolutamente. Poi c'è una componente ancora più, se vuoi, estetica. Poincaré, che è un grande matematico, è stato un grande matematico, raccontava che quando è arrivato alla formulazione di un'equazione che inseguiva da tempo, ha capito che era quella giusta perché gli piaceva. Giacomo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi interessa il suo concetto di bello, che di solito chi fa il suo mestiere di cose belle non ne vede tante. non ne vede, però a volte siamo richiesti a portarlo, a modificarlo, a cercare di riportarlo. Lei cosa fa di professione? Non faccio il dentista. Quindi mette le mani nelle carie. Purtroppo sì, ma non solo. Nel non marciume che nascondiamo dentro. Truculente, un marciscenti. Possiamo anche donare un sorriso per pura questione estetica. Adesso l'estetica, cioè il bello, ora in questa trasmissione si chiede cos'è il bello e a volte si parla di estetica, cioè bello è ciò che piace, ciò che genera un'emozione. Eh sì, ma anche non il vero voglio, perché lei mette protesi, la protesi non è vero. Certo, però appunto per questo è un concetto molto importante. Cioè il sorriso di ceramica, se fatto Fabrizio Corona, faceva ridere, sembrava un bidet in bocca, adesso è caduto il dentista, mentre lo ribecchiamo, vediamo quanto oggi Stefano Morigi, il dentista come il chirurgo estetico, come qualsiasi persona che mette mani a quello che è questo concetto irreale, la natura ti ha dato e tu lo cambi, ma tutto possiamo cambiare, il nostro corpo è fatto di pongo, di plastilina, i nostri organi interni possono essere cambiati, sostituiti, è un vecchio discorso, certo. I denti regolari oggi vengono sostituiti, cambiati, raddrizzati, io ho una dentatura arcaica perché ai miei tempi si mettono apparecchio e faccia male, io col pifero me lo sono fatto mettere, dei denti orribili, la mascella mi slitta in avanti, fra un po' diventerò come il protagonista della Mosca che davanti allo specchio gli cade la mascella. È indubbio che anche la storia dell'arte, quindi in qualche senso una porzione della storia della bellezza, sia cadenzata dagli strumenti che l'hanno resa possibile, no? Si è fatta arte con strumenti sempre diversi e questi hanno contribuito a cambiare anche le possibilità di realizzare e di concepire il bello. Certo, prendendo il caso del dentista e non del dentista che stava parlando in particolare, è vero che alcune degenerazioni della chirurgia estetica diventano dogmatiche nel senso che replicano modelli in serie. Allora non è più una ricerca, ma è la riproposizione di modelli che vanno di moda, giocando con le parole, e che allora sì, lì evidentemente di bello c'è poco, c'è una riproposizione in serie di stilemi che sono graditi però dal pubblico o prodotti quella all'arte. Che è la moda che Leopardi chiama figlia della morte, operette morali. Con Cia Morigi viene a fare le citazioni, ma sono contrarie da me, sono cose appiccicate che ogni tanto mi ricordo, ma non è che abbia studiato io. È esattamente, però se ci pensi bene, oggi viene considerato bello ciò che non è vero, ma la bellezza ti dà soddisfazione. Quando io appartengo a un modello, ho una capigliatura di moda, ho un volto di moda, ho delle labbra turgide, artificiali ma di moda, quindi mi piacciono, ho gli zigomi gonfiati che fanno schifo ma sono di moda, ho un abito di foggia attuale, quindi mi sento omologato e quindi felice. Perché il concetto di bellezza e verità sono così vicini? Sembra vero che sia bello, ma è bello che è vero, non lo so, è assurdo. Questo è molto interessante perché tu associavi giustamente l'idea di bellezza così trasfigurata a una rassicurazione che ciascuno trova in quanto appartiene a un gruppo o si riconosce in persone che hanno labbra magari analoghe se non addirittura identiche. Ma anche abiti, io ho visto un amico con dei pantaloni orribili. Quei pantaloni scampanati anni 70 che oggi li portano altezza caviglia, che sono una cosa inguardabile. Senza le calze. Sì, è orribile, terrificante. Capito? Però oggi è bello perché lo portano tutti. Esatto, un paio di labbra, un paio di pantaloni e un modo di pensare non fanno una gran differenza. In questo non c'è verità in quella bellezza, perché la bellezza è quella che si mette in discussione, la verità è quella che si mette in discussione. Nel momento in cui tu la riproponi in maniera così seriale, è come se la lezione di Pinocchio che indottrina un modello lo passa agli studenti perché lo acquisiscono in quanto tale, sono tutti parte di una stessa comunità. Abbiamo ripreso un attimo che era caduto Giacomo il dentista, proprio una battuta prima di ridare la linea ancora. Ho capito, lei rende più belle le persone che hanno dei problemi in bocca, ma cosa c'è di vero sì, in questo? Ma, esatto, a discapito della verità? E questo è caduta la linea mentre stavo per sottolineare questo aspetto, cioè la verità è dare quel piccolo difetto, non la perfezione o il colore troppo chiaro. C'era un professore che diceva: ricordatevi di non fare l'effetto Funari. Vi ricordate Funari? Quella del, certo, era lo bianca, sbiancamento oggi può portare a dei denti che sembrano fatti di ceramica subito, quindi alla fine non è quella la bellezza, perché quella bellezza standardizzata, codificata, non è il vero. È l'effetto bidet, che non è bello. È bravo, il vero è quello che sembra vero, anche se l'abbiamo modellato noi, e che dia una sensazione di piacevolezza, cioè sono quei concetti di armonia delle dimensioni. Il concetto aureo dei nostri antenati greci, che avevano delle linee e delle proporzioni nelle misure del corpo. Però se lei si ricorda cosa ha detto prima il professore, che certo, il cellulare è staccato, se non lo possiamo richiamare, che anche il concetto assoluto della dea della bellezza Afrodite era piena di difetti, aveva la ricrescita, aveva un dito più lungo dell'altro, però era bella, cioè aveva i buchetti sul fondo schiena, però era considerata bella. Quindi evidentemente c'è quella sorta di sconnessione rispetto alle regole auree, alle misure auree della perfezione dell'armonia, che però ci fa considerare qualcosa di bello. Ci fermiamo un istante. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, ditemi una cosa bella e ditemi una cosa vera. Paolo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Io quando penso a una cosa bella, perlomeno nell'arte, per me la pietà di Michelangelo è la massima espressione, probabilmente per la purezza delle linee, l'armonia, come dicevate voi. Ma è anche una cosa vera? È anche una cosa vera? Sì, è una cosa vera, tangibile, dal punto di vista che si può andare a toccare. Qualcuno l'ha presa anche a martellate, infatti. Appunto, ma poi è anche una cosa vera che trasmette delle emozioni. A me emoziona tantissimo quell'opera d'arte. Quando l'ho vista la prima volta in Vaticano sono rimasto estasiato proprio. Va bene, allora sentiamo Paolo che va in sindrome di Stendhal davanti alla pietà di Michelangelo. Loredana, una cosa bella e una cosa vera? Buongiorno, una cosa bella e una cosa vera io la vedo quasi quotidianamente in mia figlia che studia musica. Lei è piccolina, ha 12 anni, però ha questa passione da quando aveva 6 anni, lei studia il pianoforte e secondo me far dare la possibilità a un bambino di studiare musica e di coltivare questa cosa gli fa scoprire insomma anche la fatica di arrivare a una cosa bella. Il bello e pertanto... lo capisco, ma il vero dov'è? Il vero in una bambina che suona il pianoforte? Il vero è nel fatto che capisci che alla bellezza arrivi attraverso l'esercizio, attraverso la fatica, passando anche per la bruttezza. Allora, la verità, la verità è rigore per lei. La verità disciplina. Non è solo rigore, è piacere insieme alla consapevolezza e alla capacità. Ma io se chiedessi a sua figlia, giochi con la Barbie o con qualunque altro giocattolo, o c'è il pianoforte davanti, cosa scegli? Cosa sceglierebbe? Ha messo, aspetti, che la madre fosse incatenata, messa in condizioni di non nuocere. Ma io penso che sceglierebbe il pianoforte. Non ci sarebbe nessun male se gioca sia con la Barbie che col pianoforte. Cioè. Allora bisognerebbe sentire la figlia se per lei è bello e vero quello che sta facendo. Giancarlo da Brescia. Pronto, buongiorno. Una cosa bella e una cosa vera. Allora, una cosa vera sono le mie emozioni quando vado in un bosco in luna piena a sentire la parte viva di questo. Quindi bosco. L'emozione è verità, non è una chimica, non è legata all'emotività, non è, esatto. È verità. Quando mi emoziona, il metro per stabilire se una cosa è vera è una cosa che lei la emoziona. Quindi il suo pregiudizio emozionale corrisponde a verità, non è una verifica. Non è una verifica effettivamente. Lei incontra una donna affascinante, bellissima. Per lei è una cosa vera, questa le porta via anche le mutande, la riduce sul lastrico, però è comunque una cosa vera e bella. Diciamo che l'emozione mi fa rendere vero quello che sta al di fuori perfetto, di me. Per tanto, perfetto, fermola. No, mi è servita una carrellata stupenda. Stefano Morigi, uno dei due autori, insieme a Marco Dall'Arche, del libro Educare bellezza e verità. Analizziamo questi singoli casi. Partiamo dall'ultimo. Per lui è vero ciò che corrisponde alla sua emozione. Qui ci vorrebbe dall'aria ricordarci che anche le emozioni, per quanto e in quanto immediate, vanno educate attraverso i modelli, attraverso l'esperienza di un bello che si è consolidato dalla storia. Pratichiamo, seconda ascoltatrice, quell'esercizio con quel rigore che ci educa alla bellezza, e l'educazione è una forma di emancipazione dai modelli, non di ossequio ai modelli. Io, studiando i modelli in un certo modo, in maniera critica, educandomi, mi emancipo dai modelli nel momento in cui li acquisisco e sono in grado di riflettere, di dare articolazione alle mie emozioni o, nel contesto della verità, alle mie argomentazioni. Diversamente saremo sempre dipendenti da modelli, che siano modelli di verità, che siano modelli di bellezza, ma questo non costruisce emancipazione, e l'educazione alla verità e alla bellezza sono forme di emancipazione. scrivere un sms a un programma radiofonico è sempre una maniera di mettersi un palcoscenico, certo, e di simulare o perlomeno allucinare sensazioni, modi d'essere, modi di pensare che nella vita normalmente non si ha modo di verificare all'atto pratico. Mi scrive un ascoltatore: niente più bello del dare la morte in combattimento, è pura poesia. Non so se mai farà il mercenario, avrà combattuto, avrà ucciso dei nemici. Uccidere il nemico è qualcosa di bello, e probabilmente anche vero, sicuramente. Ho sospetto che questo signore non abbia mai ucciso nessuno, cerca solo, appunto, come dici tu, una platea, ci sia poco di vero e niente di bello in quello che dice, sai, i mitomani. Però c'è stata un'estetica del combattimento, un'estetica, ovviamente, della morte, un'estetica del pugnal fra i denti, figuriamoci. Ovviamente. Però insomma mi sembra molto lontana da quello che dice questo signore. C'è stata una ricerca dell'estetica anche nella violenza, per ragioni rituali, simboliche, questo indubbiamente, ma mi sembra molto lontano dall'esperienza di questo. Un'altra immagine molto romantica: un cielo stellato, una cascata circondata da natura lussoreggiante, e questo è per lui ciò che è bello e vero. Indubbiamente, però mi fa specie, e forse andrebbe ulteriormente indagato, che anche dagli ascoltatori la bellezza sia per lo più associata a paesaggi naturali. Non perché la natura non sia bella. È un concetto romantico. Sì, ci vedo soprattutto la differenza per dei costrutti artificiali, che in quanto tali vanno guardati con più diffidenza in relazione alla bellezza. Adesso tieniti forte la sedia e ascolta cosa dice Giuseppina. Giuseppina, dov'è il vero? Giuseppina. Il vero sta negli occhi dei bambini, sì. E il bello sta nella natura, il cielo, il mare, i prati verdi, tutto quello che c'è intorno a noi. Va bene, sentiamo Stefano Morigi. Negli occhi dei bambini c'è il vero? Non lo so cosa c'è, c'è l'immaginazione, c'è lo stupore rispetto a... Io ricordo un'epoca menzognera della mia vita quando ero bambino, mentivo sempre per sopravvivere naturalmente. Fingevo sempre, bambino, vuoi questo biscottino? No, grazie, non mi va, perché mi hanno educato i genitori a non accettare mai niente, a fare sempre i complimenti. Mi sono negato vassoi di cioccolatini, di dolci lussureggianti, perché dovevo mentire? Io non so, perché dovevo far finta che un bambino educato non accetta. Dell'innocenza inviolata, pura e dunque in quanto tale bella, è un concetto astratto e dogmatico che ci portiamo dietro. Sarebbe bello, sottolineo, sarebbe bello metterlo in discussione. A vantaggio dei bambini, Per sempre per identificare le categorie del bello, che dovrebbe essere una conquista individuale, personale. Giorgio da Bergamo, cos'è bello? Sì, buongiorno. Sì. Io avrei pensato più che a una cosa, a una persona. E mi riferisco a Nicoletta Braschi, che non ha i cosiddetti canoni della bellezza, ma che io fin da bambino la guardavo con una venerazione infinita. Cioè lei s'attizzava a vedere la fatina turchina di Pinocchio? No, io sono omosessuale, permetto che sono omosessuale, però sempre ritenuto che sia una delle donne più belle che ci siano in Italia. Sì, ma quella, scusi, è il concetto di bellezza assoluta per Benigni, se ne trovi uno suo, no? No, perché io trovo che sia molto bella e che... va oltre a quel concetto. Vabbè, a lei le piace, vabbè, è un modello che le piace, ma mica voglio dire che sia brutta o che... se le piace quel tipo di bellezza, è di vero, mi dica anche la verità. La verità è una persona vera, è una persona che c'è, è concreta, e quindi non va a rispecchiare dei canoni astratti, ma appunto si riferisce ad una realtà di una persona. Stefano Morigi. Do la mia opinione, la sua opinione rispettabilissima, nel senso, come quella della signora. Ma non dovrebbe essere una ricerca un po' diversa, un po' più individuale, sì, secondo un po' te? Più individuale è problematica, anche qui a riconoscersi. Perché sullo stesso modello. Piano di chi dice bella Belen Rodriguez, a lui piace Nicoletta Braschi, perfetto, sono modelli, esistono, costruiti, nulla a togliere a entrambe le persone. Certo, Kant avrebbe distinto il bello dal piacevole, quello che mi piace non è ancora bello, ma al bello bisogna educarsi, per l'appunto. Grazie Stefano Morigi, grazie a tutti, a domani.